problema. Tanto più se ci sentiamo, tanto vale a lasciar perdere, avete considerato se continuiamo a sentirci che non disturba, va ancora meglio. Avanti Antonello. E quella la portante di... quella è la portante di carciofo, detto, deve essere. Ui, ya, vabbè, va. Ognuno si ripete come vuole. Io già la... con Carlo già passo, già siamo vicini. Poi sto scendo anche con 15 watt, figurati tu. Adesso sollevo un po', c'è bene. Adesso non perché non lo... l'apparato non lo sopravvivo per niente, adesso sono 50. Ok, va bene, ma non è questione di potenza, Antonio. La potenza io con 2 watt logicamente magari mi può anche coprire, anzi sicuramente mi copre, ma non è quello il problema. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso, sembra che si sia allontanata la portante. Avanti Carlo. Prendo un attimino 2 mix per me perché devo rispondere al telefono. Le prendete pure. Si è scoraggiato perché non passava, capito? E sarà anche per quello, o perlomeno è stato solamente un momento così di... Vabbè, comunque va bene lo stesso, non c'è problema. Avanti già, riprendi ancora e poi girare, dai, ci siamo rimasti io, tu e Antonello, perché tutti gli altri si sono allontanati dal microfono, dai, riprendi ancora già. Ehi, vabbè. Non c'è nessun problema, siamo rimasti qui noi e continuiamo noi. Ma siete entrati in Italia, perché poco fa ho acceso e non c'era nessuno. Adesso che ora siete entrati? Ah, io stavo un quarto d'ora che stavo ascoltando serenamente e stavo intanto immedesimandomi su quale discorso era improntato il QSO proprio per entrare, perché io faccio sempre così, prima di entrare ascolto un pochino per immedesimarmi all'argomento che c'è in discussione, lo faccio accendo e parlo, non l'ho mai fatto e non lo farò mai così, faccio sempre ascolto prima e poi parlo. Va bene, dai, comunque ognuno ha il suo sistema, il suo metodo. Avanti Carlo. Già Carlo è al telefono, scusa. Avanti Antonello. Io sono qua, io sono qua. Siamo imitatore con lo cinese, sta girando un vento. Non si è ancora bruciato, ma qua. Ah, te Gianni. Ehi, perché si deve bruciare? Io ne ho uno da 50 ampere di quelli non cinesi, vabbè, l'ho comprato da Fabrizio perché li aveva presi per i ripetitori e mi ha chiesto se ne volevo, ne ho comprato 2. Costano una fesseria, io li sto usando tranquillamente, funzionano, ma non bene di più. Allora c'ho quello cinese, da 20 ampere questo, 20-30 ampere che era, perché l'altro l'ho regalato. Adesso ho sceso di watt, ho dato antenna, l'alimentatore, il cavo, quindi c'è tutta la stazione completa, e il baracchino pure gli ho regalato, e quindi mi sono tenuto l'altro qua, e poi mi hanno regalato un Intec, quelli 10-12 come imitatore con l'arancione, non è più, c'è quello mio che devo cambiare i ponti di Dio di quello da 30 ampere della fase elettronica, quello vecchio, a voglia di ho di roba. Ehi, vabbè, a volte ne abbiamo anche troppo, amiche, poi non sai più cosa fartene, ne hai le stesse apparecchiature, hai le stesse frequenze e hai cose in più, dai. Però a me già mi va bene, perché magari se rompere un apparecchio c'è l'altro, anche se qua è un po' esagerato da parte mia. Ehi, vabbè, non fa niente, in parte funzioni, no? Giovanna ci ha preso il 2009, gli è arrivato stamattina il pacco alle 8:30, l'ho aperto, già è a posto l'apparecchio, adesso devo telefonare domani a quello che gli ha prestato la magnetica, che non lo sta usando, così se la mette in casa Giovanna, la limitatore ce l'ha già, che ce l'ho qua io, e così se va anche la casa sua anche lì, si è avuto a prendere il 2009 uguale al mio. E infatti non ce l'avevi già il 2009, e invece è preso per Giovanna. E ho capito, dai. C'è un bel apparecchio, forse è uno dei pochi che è rimasto con tutta la, diciamo, l'elettronica di una volta, dai. C'è un bel circuito, quindi fa anche bene come modulazione, è il vecchio stampo, dai. E infatti è il secondo modello, perché quando l'ho visto con te, gli abbiamo telefonato, dice, dice, me lo voglio comprare, mi ha detto. Allora, gli telefoniamo, gli ho detto, ne voleva 90 euro. Ho chiesto com'era, dice che me l'ha fatto vedere acceso, funzionante, eccetera, eccetera. E abbiamo fatto abbiamo fatto tutto, è arrivato stamattina qua. Adesso l'unica cosa è che devo scendere l'alimentatore. Adesso non c'è Giovanna, è uscita. Devo scendere l'alimentatore suo. E poi domani chiamo a Pietro, mi faccio dare la magnetica mia, con la Turbo 2001, così se la metto in terrazzino, la caldaia prima e parla la legge. Almeno Super Logo un po' e si diverte. Buonasera, Tratto Luca, avanti Luca, buonasera. Buonasera, ciao Gianni, ciao Antonello, e me. Buonasera Luca. Ciao Giulio, avanti Giulio, buonasera. Ciao Luca, ben entrato. Gianni, mi hanno mandato un video, cioè un video, è un videomessaggio, sto dando tutto 850 euro, le due radio, accordatore, MC60, MC50, ICOM, IC208, nuovissimo, tutto in blocco a 850 euro, mi hanno mandato questo messaggio, a me non mi interessa perché non spendo nemmeno un centesimo più per la frequenza, vai Gianni. Ma dove, qua Sassi? Sì, qua Sassi, sì. No, a me ICOM non mi interessa, io se prendo un keyboard, ICOM non mi interessa. Ok, beh, dovrebbe, sì, ci sono due keyboard, ci sono, credo che uno sia il 440 e l'altro, non lo so, forse sono due 440, non lo so, la verità, perché non si vede molto bene, comunque il 440 c'è sicuro, poi l'altro forse sono 140, anche non lo so, ma veramente io. No, a me non mi è arrivato nulla, magari se mi arrivano li do un'occhiata, dai. Ma non dico che mi interessano, perché per il momento non voglio prendere nulla, dai. Visto come stanno andando le cose, spendere altri soldi no. Saluta, vai, saluta. E ciao. Ciao. Ciao Gianni, cioè Gianni, Giulio e Antonello. Ciao Gianni. Ciao Gianni, ciao Giulio, ciao Antonello. Antonello, vai già. Ciao anche a te, ben sentita. Non so come ti chiami, quindi non ti posso chiamare per nome. Io sono Gianni e molto lieto di ascoltarti. Avanti. Io come ti chiami, dai? Margherita. Margherita, avanti Giulio. Ok, ciao Margherita. Ben entrata allora in frequenza. È un piacere ascoltare anche una voce femminile. Gianni, mi è arrivato un nuovo messaggio, non vendo assolutamente niente per Sassari, dunque è tutto da rifare con la notizia che avevo dato prima. Vai Gianni. Allora ho già capito chi è. Vabbè, se lo sai, ma io non ti dico chi è. Va bene, sono contento che qualcuno si specifici le cose chiaramente. Vabbè, dai, comunque, avanti Antonio. Sono uscito. E adesso sono uscito. incinto, sì. Ma adesso ci viene incinto. Non è tanto che bigliare un gusto, forse lo schiaccio, vabbè, è un parecchio tempo che non usavo il 140. Adesso comunque va bene, sì, perfetto. Babu, dai ragazzi. Ciao, ciao, ci sentiamo, ciao Luca. Con te, ciao Gianni, ciao Antonello. Di Gianni. Non te la metti in culo la portante. Ehi, ciao Giulio, vai. E purtroppo la portante ti ha passato. Non riuscivo a capire cosa dicevi. È un po' facile così apprezzare una persona grande di età con un baracchino che gli mette la portante. Ma cosa ne hai? Cosa ne hai? Non c'è un cazzo da fare. Esci, vai a bere una birra, fatela mettere in culo. Lu, fregate, non parlare male, no, non è niente, dai, tanto, meglio ignorare certe persone. No, vabbè, a me non fatti io, ecco, già non c'è nessuno, più è tanta gente a parlare, chiedo scusa per quello che ho detto, però non vanno bene queste cose, perché se devo prendere così a disturbare le persone, non ho capito, boh, non vedo giusta, ce l'hai con lui, va a casa sua, e discutile, cosa ne hai a mettergli la portata, non so che disturba a lui, ma disturba anche a noi, è quello, eh. Sì, va bene. Sì, ciao, Gianni, sono quanti? Per cui... Non ce l'ha con noi più, che avvicinate. No, Giù, ti distorce la voce, non passa. Sì, va bene. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Giulio, la tutti i dindi, lascialo fare. C'è tanto già c'è Gesù Cristo lassù che prima o poi anche lui lo chiama. Che gusto, gusto. Non so, ma già non c'è nessuno. Il bello è scoprirlo chi è. Il bello è scoprire chi è. Fagliela pagare, perché non vanno bene queste cose. Se io ce l'ho una persona, lo chiamo al telefono e gli discuto, no che gli metto la portante, non ha senso. Tanto prima o poi lo beccano. Vabbè. Ma quando ti incarti poi esci fuori dai gangheri e poi magari ci parolacci e cose del genere, a tutti i dini. Passa lui va, già in basso. Lo so, da fastidio però, cioè non si vuole fare le chiacchiere, santa pace lo può fare perché c'è gente del genere. Assurdo. Ui ui ui, vabbè, a te non ti fa niente, a voi lo stesso. Perciò a noi non ci fa nulla. Sì, io anche Antonello lo sento, quando esce di radio lo sento. Allora, non ha più fatto adesso quell'effetto. Sì, quando lo usi baracchino da parecchio tempo, capito, lo fa, intanto questo gioco qua, ma lo fa con tutti gli apparati, quindi adesso bisogna che lo accendo tutte le sere, come facevo prima, e così almeno è tolto il problema. Sono quello lì, adesso vedi, sta funzionando benissimo, quindi è perfetto, poi se no, al limite mi piace. Mi sente, c'è. Sì, Antonio, basta metterci un po' di spray, ci metti un po' di aria, poi un po' di spray, PTT già ripassa, anch'io. Allora, sia quello della macchina che quello di casa che stava facendo difetto, gli ho messo lo spray, adesso è passato, speriamo che lasciandolo fermo non me lo rifaccia di nuovo. Prego. Avanti, Beck. Adesso usando il Salerno. Avanti, Beck. Ciao, buona serata a tutti. Gianni, credo di aver risolto. Era il PTT nel mio caso. Disossidante sul PTT e una soffiata di aria, di bomboletta di aria compressa sul cursore. Credo che non abbia né scariche né portante muta. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Adesso va bene, ma... Sono contento, dai, forse è entrata un po' di polvere, sai, quella microscopica. Saluto a tutti sul canale, non so chi c'è, ero sul 19 a fare le prove. Succede sempre così, però il microfono è troppo nuovo per farlo, come dici tu. non dovrebbe farlo, appena comparati. Sai cos'è già? Qua c'è molta polvere e diventa talmente sottile che è impalpabile. Poi quella sabbia dei gatti, non te ne dico, crea una polverina impalpabile che non la vedi nemmeno, talmente fina che è microscopica. E qua come cambio la sabbia viaggia e magari era anche quello. Quindi sul cursore solo aria compressa. Rilancio, che ho sentito, Pomponio, vai. Ciao Marco, ben sentito, salutoni, me l'hai ascoltato, stai facendo bene anche tu. Io ho una sabbia dalla parte della vece d'Otteria, lo sai, stanno facendo il cappotto del 110%, quindi vieta la finestra quando apro. Infatti c'è un po' di polvere, ma vedi anche. Adesso mi procuro quello spray, quello l'aria e comincia la. Pure il l'apparecchio, chio. Ciao Marco. Chiedevo perché c'ho le cuffie, non so bene dove, ma quello è scotto bene acceso, quello tuo, e mi sta ascoltando. A parte la ventola delle, che si sente sotto dell'alimentatore cinese, già vabbè. Ehi Antone, hai un bel po' di rumore di vento, dai. Vabbè, sono contento che non ci fosse niente di saldato qua in questo mic, perché sì, è il colmo, è comprato nuovo, usato due volte, messo nel cassetto e stava già andando male, addirittura non usciva a tratti. Riprendi Luca. Vabbè, ma con io cosa? Dove parli con culo, eh? Logato. Ma lo sai che sta chiamando una sera sì e una no? Mamma è scocciata perché chiama sempre, rompe il scatto e si trattiene e non riesce mai ad attaccare la cornetta. Io dico, ma io non ci sono, non ci sono mai. Dì che non ci sono, perché sennò è peggio delle zecche, Paoletto. Allora fai il barattino, almeno entra. Anche se può scendere, va. Adesso usato il... come si chiama questo accesso? L'M95, come va? Ehi Antone, ogni tanto c'hai un fischio, forse perché ti stai ascoltando. Chi altro c'è sul canale? Ma c'era Carlo, qui ha fatto un attimino di cosa, di Gorix, perché era al telefono. Qui c'era l'Altalino, ha detto che ci sta ascoltando, ma sta mangiando. E poi, non lo so, che ci sia di altri, saranno tanti ascoltati. Ci saranno gli operi che riporto. Adesso con l'M95. La vento si sente rimasto di meno. La modulazione già è abbastanza buona, diciamo. Deve essere il microfono ratificato palmare. Con il GBP, grazie al tempo, no? Avanti già che attacco il ZG. Il microfono si sente sempre questo innesco come il prodotto PTT, un innesco fino fino, ma si sente adesso sono per dettagli. Cazzo. Kappa, kappa, kappa, kappa, ja vabbè, ja vabbè. sono così le radio, sono una sull'altra, eppure è un fischiano. Ehi, fischiano, quando sono venuto, ma te ne parlo l'altra, andiamo su. La 8.009 c'è il codice 4.000 che mi ha dato Marco, ce l'ho poi fatto a fianco al Kimbut. Dall'altra parte invece c'è il coso, il 2009 quello nero. Ho intanto l'accendo, e se no c'è problemi di coso. Cioè. È lanciato l'alimentatore il 10-12 e poi c'è l'ordinare con la valvola, l'ho aperto ieri e già funziona il coso, il dato metto, solo che non sale più di tanto, c'è il diodo rilevatore da cambiare, ieri ho cambiato per tanto tempo il metodo nuovo. Mi ero sacco, guarda la GBC, ma anche la GBC non c'ha nulla, mi aveva la fusata, se ho trovato uguale. Sì, la GBC ne ha di pacchi senza aprire, chissà quanti ne ha di queste cose, non sa manco dove sono. Sì, ma se sono andato e mi ha detto, no, in questa roba qua io non è stato più, perché vieni qua, mi ha detto, vai da fusato, se no te la fai arrivare da fuori. E io ho risposto, che cazzo di discorsi sono, gli ho detto, Tony, scusami, non ti offendere, ma... se stai facendo questa pratica qui, allora non ci viene più nessuno, perché vedi quello che devi vendere e basta, gli ho detto, a un certo punto. Se non vuoi avere più a che fare con i CB, o con i motori, quelli che passano per prendere i componenti, lascia stare, vendi quello che devi vendere, gli ho detto. Poi avete detto, andrò a Fusaro, che ci è rimasto lui, e basta, non è che posso andare a farmi arrivare un pezzettino, no, un tassista da Inter, solo uno, che non mi conviene nemmeno. No, ti mandano la sigla. Appunto, per forza appena almeno 10, esami di voto, non c'è mica un laboratorio, non ne frega più niente. Capito? Ecco perché l'altra volta ho messo l'annuncio su Facebook, se qualcuno c'aveva la barattina da buttare, che non se ne faceva niente, eccetera, eccetera, che dovevo buttare, me le regalava, andavo e me le prendevo. Proprio perché non ci sono pizzi, no, peraltro adesso gliel'ho chiesto a quello che mi ha mandato il 2009, ho detto mi fa sapere qualche cosa, se recupera degli apparecchi e ha detto mi paghi il pacco postale e te li mando, mi ha detto. Ho detto va bene, facciamo così, io ti carico la posto qui e mandami il pacco postale, così sono, cioè gli apparecchi, se sacco i pezzi da lì e così sistemo le cose. Metto che lì non c'è più niente, i negozi se senti qualcosa non vedo più nulla, ma con chi lì? Infatti Luca, perché nessuno si interessa più della frequenza, capito? Non ho fatto più niente a nessuno, solo il continente è a Cagliari qualche cosa, tu vedi? A Cagliari dice che c'è un rifornitore che vende antenne e tutte queste cose qua, ma di tutti di più, però più che per altro per camionisti. Ehi, allora per camionisti vabbè già li conviene, perché c'hanno tutti i midrand, c'hanno, quindi... Ma ce ne sono parecchi, 90 euro c'erano 5 o 6 ieri, poi questo c'aveva anche del Midland, ne aveva due, una alla 68 e una alla 48, ma ora mi prendo 17 apparecchi funzionanti e per smontarli, e non ha nessun senso, capito? Mentre c'erano che addirittura c'era uno che ha scritto, dice, vendo questa roba qua, gli mancava tutti gli apparecchi, tutte le manopole, lo smitter, eccetera, eccetera, in un microfono stavolta gli mancava il cavo addirittura, tutte roba di scarto. E gli ho scritto, ma l'ha fatto andare al cazzoletto, gli ho detto, che è meglio. E infatti, è Mondezza, l'ho visto anche io, che c'era Mondezza, era tutta roba che ci voleva eliminare perché gli dava fastidio, capito? Sì che un apparecchio a smitter, qualcosa la puoi recuperare, ma così ti ha dato la scatola vuota. Esatto, sì, la roba da lampazzi. Ho scritto, perché la fai mandare al cazzoletto? Ho detto, regala a qualcuno, ho detto, qualche laboratorio, magari ne ha bisogno, ho detto. Ma sei, ho scritto, ma sei proprio un cane morto, gli ho detto. Ho scritto così, cane morto, perché... possibile, cioè, mettere in vendita scatti del genere per 30-40 euro magari, più le spese di spedizione. Boh. Ma io preferisco non commentare certe cose, lascio scivolare, capito? Non le commento nemmeno perché non hanno nemmeno diritto di essere commentate, tu via. Cioè, uno se vende una cosa la deve vendere, sì, che ti vende coperchi, vedi, coperchi di un apparecchio che sono nuovi, come io l'ho dato a Luca, ci ha fatto l'apparecchio nuovo. Esatto, no, coperchi già ne ho io, ho coperchi dei baracchini Inter, ho anche la scheda 200 canali dell'Inter 600X addirittura, con i coperchi e tutto, a chi serve, viene, se dipende, eccetera. Eccetera, cioè, lo suite mi sembra che è un lavoro dato a chi serviva e quindi non ho capito. Come ti ridono, ma non saranno, questo proprio, quello è proprio un cane morto. E allora che moriva di là, scomba, c'è gente che vende la mondezza proprio. E purtroppo c'è chi magari gli serve qualche cosa, magari gli serve la scocca o il frontalino o qualche cosa, si rabbia. Sì, vabbè, sono d'accordo anch'io con te, però se glielo hai integro, cioè anche se il baracchino è bruciato dentro, lo hai integro, così va bene, ma se mancano le manopole, mi dai solamente la mascherina, eccetera, eccetera, e poi manca anche lo smite, che senso ha prenderlo? Vai, cazzo, per pigliarlo così, fammi andare al cassonetto, ce lo butto. Il discorso è quello. Ci vuole l'apparecchio proprio integro, io ho chiesto così. A me, cioè, funzionato, non funzionato, non mi interessa niente. Se uno ce li vuole buttare, altro che buttarceli, pagare per dire, per buttarlo nella roba di elettronica lì all'EcoCentro, gli pago la spedizione e me lo faccio inviare a casa, no? Tutta la roba. Poi ti penso io, al limite, quello che mi interessa, se lo fai qualche riparazione, lo prendo, lo stacco, eccetera, eccetera. Se poi magari uno ha bisogno di un baracchino, guarda, sono senza baracchino, altrove ce l'hai uno, però sono per il baracchino, non me ne frega niente, a me di guadagnarci niente, se non mi interessa. Ma infatti, lo da 50 euro magari e niente, tanto lo aiuti, magari se non ce n'è. E vabbè, Carlo non è più entrato, che era al telefono, poi non è più entrato. E magari la notte era perché ha aperto qualcuno e c'è da fare, magari non sta a fare la spesa, niente di strano. Luca, Lucrezia, cosa c'è mai niente? Ho preso queste frittelle lì, buonissime da Cesaraccio l'altro giorno, si sentiva proprio il sapore dell'anice, proprio buone, morbide morbide, calde ancora, ma era. Giovanna mi ha dato un cozzo ieri, un piatto grande mi ha dato, ce ne ho ancora, sto mangiando piano piano, non è che mi metto a mangiare frittelle così di colpo, capito? Poi adesso che la mattina quando mi alzo che non mangio niente, mi sento strano, capito? Quindi vado per forza a mangiare qualche cosa perché bere solamente acqua non fa. Stamattina sono uscito e sono detto senza a portare la provetta dell'urina lì alla come si chiama, Pastorosa, e quando sono entrato ho mangiato e mi sono ripreso, capito? Avevo una vammi, figurati. Sono sceso giù e gli ho detto qualcosa, era mezzogiorno e mezzo, ho detto dammi un coso Lainec, e ne ho detto già che non mi sento bene, ho bevuto Lainec piano piano, è stato tutto come se mi si, la mattina quando non faccio colazione mi si abbassa la pressione, capito? E allora c'è il rilascime all'alcol. Ah, non state bevendomi come prima. No, niente. Anzi, prima quando lavoravo giù in campagna, da quando sono fermo, capito? Quando lavoravo in campagna facevo colazione, lì al bar, prendevo la frittella, poi andavamo lì a lavorare, sudavo e non ci facevo niente. Per dire, prima di pranzo ci bevevamo una lattina, poi dopo pranzo altrettanto, poi andavamo lì vicino a casa di Luca, quando mi accompagnava, verso le 8:30, 9, Antonello, ci bevevamo una cosa lì al circolo, non sai che gli dice un circolo, la birra costa 2 euro, e il vino addirittura mezzo litro costa 2 euro, e poi sabato fai pranzi, basta che tu vai prenoti il giorno prima 10 euro a persona, immagino come siete cani, capito, 2 primi, 2 secondi, 2 terzi, sono andato parecchie volte di mangiare, ho mangiato primo, secondo, di tutto ho mangiato, non è mai successo niente, da quando sono fermo, perché ha avuto problemi Simona, poi ho avuto problemi di influenza io, a forza di prendere questi antinfiammatori eccetera eccetera, ma che batto. Ma non è che ha fatto il vaccino, non il quarto vaccino, ho fatto. No, vaccini non ho più fatto, ho fatto il terzo, boh, basta, non ho fatto altri. Non ho fatto molto più di vaccino, già basta, come sofferto, ma mi ha preso le braccia, mal di denti, la gamba, capito? Era una cosa allucinante, ma dolori miei, di denti che sembrava che mi avessero infilato gli aghi. A me mi aveva fatto male al braccio, non riuscivo manco a muoverlo, però mi è durato 2 giorni, così poi mi è passato. Adesso ci sono gli insetti, coppia di insetti, io metto gli insetti nella roba da mangiare, la farina di grilli, poi le larve, e dice che fa male, che c'è qualcosa praticamente che fa male alle persone umane, che possono mangiare solo gli uccelli, che la digeriscono solo gli uccelli, c'è una sostanza in queste cose qua, in questi insetti qua. Hanno trovato di tutto in mezzo alla pasta, insetticidi, hanno trovato poca di roba. Se tu guardi su Google, ogni giorno c'è un non mangiare questo che è pieno di insetti, pieno di insetticidi, poi non mangiare quell'altro altrettanto, tutto c'è, dalla pasta al cioccolato al resto, c'è la salmonella anche, stiamo mangiando merda, stiamo mangiando, da quando è successa questa guerra qui stiamo mangiando merda, perché chissà dove stanno facendo arrivare, evidentemente la roba dalla Turchia o qualcosa del genere, e loro se ne fregano, capito? Eccomi. Ehi, ciao caro, ti ho chiamato diverse volte, tu non devi essere ancora al telefono. No, perché eravamo senza riscaldamento, quindi avevo avvisato l'amministratore, ho mandato il manutentore, mi hanno chiamato giù perché non riuscivo a entrare nella porta, quindi ho le chiavi di tutto e quindi poi mi sono trattenuto giù a chiacchierare. E niente, siccome mi ero spostato, appunto, li prendete pure, dai. Comunque, stavo parlando degli insetti che mettono la roba da mangiare. Ma cosa ne dici di cazzardi? Cazzo, gli insetti nella roba da mangiare ti mettono. Ah no, perché non hai sentito parlare di farina di grillo, di larve, non hai sentito parlare. Se ne compri apposta però, ma tu ne compri grilli e larve da mangiare, cazzo. Lì, te le mettono in mezzo, ancora non hai capito che se tu lo leggi l'etichetta te le mangi senza saperlo le cose. Tu vai a leggere quello che c'è dentro. Ma cosa? Che non ne possono fare cose del genere? Ma prendisi! Sì, vedrai tu, a dove no, di tutto stiamo mangiando, da quando l'Ucraina non ci fornisce più grano, sta arrivando il grano da fuori e non sappiamo neanche cosa c'è in mezzo, a fruttidini. Di tutto di più stiamo mangiando, il cioccolato con la salmonella, siamo a posto già. Farina di Beppe Grillo. Ciao Marco. La farina di Beppe Grillo, sì. Messo a posto l'apparato. Ma di tutto stiamo mangiando, di tutto di più. Ah, è visto che adesso fanno la carne. sintetica, ce l'hanno quella a mangiare, quindi... Antone, se ci danno la farina di grillo saltiamo tutti. Marco, no, ancora no, non l'ho aggiustata, capito, e sono con quello piccolo, il presidente Bill. Tra le cavallette, saltiamo di brutto. Carlo, no, perché non sentendo il bip, credevo che te l'avessero messo a posto, quindi il bip è escludibile anche lì. Sì, sì, qua lo puoi escludere se vuoi. Ok. Sì, comunque parlano di questa farina di grillo che pare sia molto proteica, super proteica, quindi sarà una dieta particolare tipo per atleti, ma non solo, ma la pasta fatta con questa farina sarà molto ma molto più costosa. Qualcuno ha detto, ha parlato addirittura di 3 o 4 volte il prezzo della pasta normale. Poi se se la vogliono mangiare gli atleti, vabbè, contenti loro, però è super proteica, è una cosa particolare, cioè ha dei vantaggi per chi la vuole. Cappa. Sì, esatto, noi in Sardegna adesso avremo l'invasione delle cavallette e possiamo utilizzare quelle. È troppo buone, vedi, croccanti. Ciao Natalì. Sì, ecco, perché non prendono le cavallette che sono infestanti, ce ne sono tante, anche in Africa fanno bene di danno. No, i grilli, vabbè. E addirittura ho sentito ci sono gli allevamenti di grillo. Hai visto in Cina, con la palazzina di 15 piani, tutta con i maiali dentro. 1,5 milioni di maiali, che so. Ha voglia a carne. Ma cioè negli appartamenti? Sì, hanno fatto una palazzina intera, hanno fatto, di 15 piani, fanno gli allevamenti di maiali. Ah vabbè, è dedicato solo ai maiali però, è strano, forse per sfruttare meglio lo spazio in verticale, bel fiago mi ci deve, Gianni riprendo. Sì, non è questione di odore, no, è questione se dovesse qualcuno andare lì con una sigaretta, con la merda che c'è nel maiale, il metano che si forma, e vedi che roba pigliando fuoco lì. Può essere, anche quello. Natalino, riprendi. Sì, cazzo, ho appena mangiato, ma avete disgustato. Ehi, per così poco. Io guardavo anche in TV film strani con soppa del genere, mangiando a cena non mi faceva alcun effetto. Io paghi ciò, mi posso rubare nella ministra, io tanto mi raso guva e non compare giù più un cavolo. La ministra di griti facciamo. Gianni, ci sei ancora o sei uscito? Perché prima sentivo il cane protestare. Tocca tornare ai tempi antichi, Carlo, bisogna farselo in casa, il pane, tutto quanto. Magari come una volta, epoca da buono, cotto al forno a legno, altri tempi, io già l'ho conosciuto, adesso forni industriali, capito, e il pane lo vedi già imbustato, se non vai proprio al forno a prenderlo, non senti più neanche l'odore. E infatti è poco lavoro che sul dondo che fa di rabbassi a Itili, a Coso, a Sorso, chi su mi piazza, chi se pane. Pane buono ce n'è a Osilo, dappertutto, a Bonorra fanno il zicchi, quello morbido, con il formaggio fuso, sai quanto è buono. E ogni paese ha le sue usanze. Pane di Osilo costa un bel, lo sai. È buono, ma costa un bel. Lo tagliato a fette, lo danno. Sì, sì, esatto, lo vendono anche a pezzi e imbustato, capito? Fanno focacce, di tutto di più. Lo so, già l'ho visto già quel pane, quando quest'estate ero io ad Antonello, quel pane, sai come ci usciva l'altavo? Dovevi vedere quelli di fuori che venivano con l'arrosto, come se lo mangiavano quel pane, spariva subito. Scusate un attimo che stavo cercando di inserire Roger Bip e invece no, non è andato. Ehi, vabbè, per il Bip ci vorremmo inserirlo. Qua è una seccatura perché non lo puoi togliere, a meno che proprio non manometti l'apparato dentro. Raga, Ricciano, so che sei. Allora, sta malattia, non ci vanno, li metto tutti i bimbi qua, tutto li metto. domani. Sono da qua, lo provo, gli aumento il watt, gli metto 12 bip qua tutto unica. Si sente adesso, che bello che è. Sì, si sente adesso. Sì, no, perché praticamente lo devi spegnere e riaccendere tenendo premuto AM, FM, poi toccare il tasto funzione e ti lampeggia la funzione Roger Pip. A quel punto col tasto canali metti on o lo escludi oppure lo includi. Io ho avuto uno Roger Pip, già se lo ricordo a Natalino, c'era il Roger Pip del microfono, quello delle, mi sembra che era dell'F24 o dell'Alan. E quando volavo la porta è vazia, te la pigli in culo. Ce ne sono di tazzi zitti, certo. Dirivi. O se no quello. No. Forse Marco ce lo ricorda. Quello porno. Te lo ricordi Marco, quelle della media, quello porno che faceva. Che c'era il pulsante, faceva. Sì. Allora Carlo, tanti anni fa la Midland faceva questo microfono in cui potevi mettere queste specie di cartucce o microchip, no? E ogni microchip conteneva tipo una melodia diversa, una musichetta, un beep diverso, e c'era anche quello così, osè, dove c'era la tipa che ansimava, quello che piaceva Antonello, mica lui. E lui è depravato, per forza. Quello io avevo fatto sentire a Giannina, lo sabbiata. Non dicendo che avevo preso il microfono, da 3 anni che ti faccio sentire una mica. Io gli ho fatto sentire. Ma cosa l'hai sfogliato? Io ho detto no, ce l'ho qua a fianco. Poi gli ho detto, ma cosa diavolo è? Dice, gli ho detto, guarda il microfono della Midland, un'ala che mi hanno dato, detto, e lo stavo trovando. Già siete bravi, vai. Ma lo sai Carlo cosa ho sentito? Che non dovevo sentirlo neanche. Un contest stava chiamando uno di Cagliari. Chiaro l'ho sentito stasera. Ma sulla banda laterale, Natalia? In 40 metri. Ah, ok, con quella antenna nuova che hai messo, quindi. Ehi, una bomba extra. Meglio così, buona sapersi, però quando vanno via qua coi lavori già mi sistemo tutto meglio. Avete ancora i lavori? Perché qua stanno andando a rilento, Carlo, hanno rallentato l'inverosimile, probabilmente, non lo so, o ci hanno tanti cantieri aperti, perché qua non si finisce più se no cacchio. E poi mi chiede il ponteggio, cioè io sapevo che dovevano durare 6 mesi i lavori, no? Cioè se tu tieni il ponteggio un anno, nel mezzo due, chi lo paga? Se alla fine sono loro che stanno rallentando, l'impresa dovrebbe essere a rigor di logica, o ce lo accollano a noi? No, è tutto compreso nel 110, anche le tasse comunali del suolo pubblico se lo usano, è pagato tutto da quello, capito? Quindi è l'impresa, solo che queste imprese cosa fanno? Aprono 100 cantieri, lavorano in tutti e 100 e non ne finiscono neanche uno, capito? Da noi adesso sono 3 settimane che non vengono più, hanno iniziato, hanno messo l'impalcatura solo nel retro del palazzo, hanno messo il cappotto termico nella zona dove io ho l'appartamento, tutto fatto, hanno fatto l'intonaco e devono solo tinteggiare, capito? E poi dovrebbero fare l'impalcatura nella facciata principale sulla via, però dice che dovrebbero farlo a breve, e ci ha detto così l'amministratore, però per adesso sono 3 settimane che non lavorano e stanno lavorando sul tetto, stavano lavorando l'ultima settimana che hanno lavorato, il tetto a porzioni, per cui a 4 spioventi, 1 spiovente dovrebbero averlo finito. L'hanno impermeabilizzato, hanno messo anche lì il polistirolo, no? Lo strato di coibentazione, e poi le tegole nuove, però ci sono ancora tre parti, c'è l'ascensore da fare, il fotovoltaico, ci sono gli infissi che ancora non ce li hanno cambiati, cioè da sei mesi che avevano detto questi ci staranno, se va bene un anno, continuando di questo passo ci impiegheranno un anno, immagino che anche da te sarà così, però non dobbiamo pagare niente di impalcature, cose del genere. Beh, Deo grazie, dai, no, per evitare ulteriori spese impreviste, eccetera. A proposito, l'altro giorno qua è arrivata la luce, quasi 400 euro di luce elettrica, e non abbiamo né pompe di calore né roba elettrica forte, capito? Qualche stufetta così elettrica, ma all'anima. Sì, quelle purtroppo incidono parecchio. Io a casa non ho più lo scaldabagno, ho la caldaietta a gas. Le lampadine, ho tutte lampadine a LED, gli elettrodomestici che sto utilizzando sono tripla A, più, quindi sono quelli a basso consumo. Avevo sostituito tutto e quindi ogni bimestre io sto pagando dai 70 ai 100 euro a bimestre, quindi la media è di 35-50 euro, non di più. Non ce l'aspetto, cioè, io me l'aspettavo un po', perché mamma sta usando molto la stufetta elettrica, che lei sta molto a letto lì, e da lì non si muove, però cacchio che uno la accenda alle 7 di mattina e se la lascia fino a mezzanotte quando va a dormire, e ho detto ma tieniti, perché sarà una bella botta. Va bene, vediamo se è rientrato Gianni o Luca. Spariti di punto in bianco. Carlo, come pulizia questa modulazione, come la trovi? Guarda, sono a distanza di 30 centimetri, un po' meno di un palmo, sto parlando con un volume abbastanza pacato, io non urlo mai, tranne che in macchina. Vedi un po', microfono amplificato a metà. Come pulizia, come timbrica, come ti sembra? Pulita no, è appena secondo me un pochettino tipo compressa, ma poco, quindi se abbassi un altro pochettino sicuramente va benissimo. Il segnale qua è fondo scala da me. Probabilmente la vicinanza, il baracchino è 4 watt, è il 3009 questo qui, un po' compressa, sì, probabilmente è la vicinanza. Aveva delle scariche, non usciva di radio, questo è bastata una botta di disossidante, quello secco, quello che evapora subito. È appena tipo rauca, capito? Però diciamo la radio è buona, è radio 5 qua, però ha quel tipo gracchia appena, è come se ci, non lo so, ma il microfono stai usando quello preamplificato? Sì, diciamo che di voce non sono proprio, di corde vocali non sono messo bene, è un po'... Sempre quando esco mi becca le corde vocali, subito, io esco anche molto in moto, anche d'inverno, sempre, forse anche quello, vediamo, se mi allontano, vabbè, non è un problema, posso anche abbassarlo, era per provarlo dopo tanto. Dai, riprendete voi, vado a fare il caffè. Natalino, se ci si riprendi. Ma la cacciata mia era quello di fare il caffè, sopra il premiere che ha il cuore, la forse è troppo vicino a te dopo. Sarebbe benissimo, chiara la voce, non c'era più quell'effetto raucedine, diciamo. Allora è quello, vabbè, avete parlato, avete ripreso assieme, ripeti Natalino. Che mi arrivi al cuore Ramon, la radio è bella lo stesso, bella radio e buon segnale. Vabbè, il segnale nemmeno a parlarne, vediamo un attimo, se lo metto a manetta, ecco. Distanza tutto il braccio, sicuramente effetto stanza, 1, 2, 3, prova, canale 10, modalità AM, vediamo com'è, la curiosità mia, sicuramente fa effetto stanza, ma è passabile? Sì Marco, va, è passabile, certo. Sì, non distorce, l'effetto stanza si sente appena. Va bene, allora Bianco, per me verrà caffeina no, perché è decaffeinato, vado a fare il caffè, a da voi se ci siete ancora, se no ritenetevi salutati tutti, ok? Buona serata, vai Natalino. Già ci sono, tanto non disturbo più. e posso parlare. Vista là quella fotografia del Ballon 4-1 che ho costruito. Sì, sì, avevo risposto, l'ho visto. Bellino, sembra fatto anche di fabbrica, cioè molto bello simmetrico. Bello, bello. Cava, cava. Mi hanno fatto anche i complimenti. Lo credo, Natali, l'hai fatto bene, proprio come l'hai assemblato, come ha detto Marco, io te l'ho detto anche ieri, sembra fatto, comprato in negozio, capito, fatto di fabbrica. Sì, ti passo anche lo schema dell'antenna completa, così ti puoi fare, o la verticale o la long wire. Io sarei più per la long wire, che magari confonde di meno, per non mettere altri radiali, eccetera. E io l'ho piazzata così, non ne ho messo radiali, no? Io ho tirato il filo e già riceve. Ho capito, quindi sui 40 addirittura sentivi Cagliari. Sì, sì, stasera ho ricevuto la sezione proprio di Cagliari, perché il nominativo era della sezione, capito, era IQ0. Bene, Mela, bella storia, dai, meglio così. E quindi siamo rimasti solo noi due, dai, Marco è andato a farsi il caffè, non sappiamo se riprende, Gianni vediamo se riprende. Io già sono ancora qua. Eccolo anche Antonello, pensavo che avessi chiuso anche tu, Antonello. Niente, allora forse Gianni è uscito, perché prima mentre parlava io sentivo il cane sotto che si lamentava, sicuramente è dovuto uscire a portare il cane. È sensato magari, sì. Allora io sono andato a aprire invece a Simona che c'è 2 secondi che è scesa giù e adesso è salita. Gianni, è per quello che ha smesso. Giovanna c'ha un cane cazzo, che apre la porta con le zampe. Cosa? Giovanna c'ha il cane che apre la porta con le zampe, detto. E allora è cane alto, va. Sì, apre la porta con la zampa. Poi già poco delicato quando si mette in piedi, già mezzo a poco. Che cane, io c'avevo il fattore tedesco che faceva così, apriva proprio la porta con la zampa, perché si metteva dritta a due zampe e apriva, maledetto, era furbo. Sì, anche questo fa così, se si fila gli apre la porta del bagno. E quello è poco ma sicuro, si mettono a due zampe e perché vedono a te e allora cuppia, no? Vabbè, ho visto quel gatto che c'ha, prima faceva lo prepara le balle, adesso non lo prepara più per niente. Ma quando c'è quel cane, il gatto prende, se ne fugge, sta zitto e parte. E che cane è quello che c'ha tua sorella? È un incrocio, non so che cane sia. Ti faccio la foto, ti faccio vedere. metri in piedi, arriva aspetta a me, a 1,20, 1,30 si mette in piedi. Ah, lui è piccolino e non ci arriva, se non l'avrebbe fatto anche lui, è poco e furbo, è intelligente in questo. Ti fa vita, a me mi fa stare bene. Poi ci vuole della tappa ogni tanto. Ci vuole. Hai arrivato domani di gratto. Sì, infatti. Chiccio è a che basso, se no l'avrebbe fatto anche questo. Quello che avevo io, l'altro già lo faceva puzzinoso, perché pauserà. Vabbè no, Tommy già è a ben basso, quindi Tommy è dove con noi dorme, capito? Si mette vicino a Simona, gli fa l'alto abbandante, gli fa. Capito? Quando vede che barcolla appena appena si muove in piedi e poi si mette a bagliare. Invece la notte è l'onfio, no? Quando Simona verso le 10 di genere se ne sta a letto, prende, viene a piedizzare, si mette sopra e mi guardano come per dire io molto mi hai da stare in cameretta. Che c'ho sonno, che voglio andare bene a letto. Allora dopo un po' figlio a parte torna di nuovo in cameretta e poi viene di nuovo dove sono io per richiamarmi, capito? Allora oggi ho compreso, io prendo, spengo il televisore della cameretta che c'è qui e mi metto in camera a letto. Allora lui bello tranquillo si mette con le zampette sopra il braccio mio e si addormenta. Ehi, pure questo mi chiama, se io tardo, mi chiama Barosa, io beh, non ti cocchi, uzzinoso. Ehi, la mattina mi toglie le coperte, mi togli a me, incomincia verso le 7, mi lega tutto quanto l'orecchio dietro, e lo spingo, e lo prende lui e con le zampe mi toglie le coperte, io alzati. Che Simona sta uscendo. Infatti, nel tuo caso dopo vista, tutta a terra. E infatti alle 7:30, massimo 8:15 sono a piedi. Figurati. Adesso poi noi andiamo a uscire presto con Giovanna per fare questi documenti, poi facendo tutta quella roba per l'aggravamento per la pensione, se mi danno 104 sono a posto. Ancora non me l'ho chiamato da Vizzito, ho fatto la domanda, ancora non mi hai chiamato. Sì, io ti chiamo. Ah, beh, intanto sto facendo la documentazione tutta nuova, quindi sono a posto, già ne ho tempo. Mi porto tutta la documentazione nuova, poi se sta bene la 104 ho fatto 13, ci parlano che me la dia. A Simona gli hanno dato la 104 normale e adesso dovrebbe fare una visita e vediamo un po' se gli danno l'altra. C'è il comma 3, c'è lì, capito? Sì, ho capito. Perché intanto 2024 già lo sai. E magari se c'è nulla, se non ci danno qualche altra cosa, si vedrà adesso cosa vorrà fare quella. Ambo, che messo? Cosa vuoi che ti dica? Mi hanno affittato nei giambendi. E vabbè, vediamo come va a finire. Catami fatto l'entrata di Rumazzoni, cioè l'entrata di Rurione, città di Rumazzoni, tutti si sono avviati. Ehi, già è vero, già quello. Quello già è vero. E vabbè. Ogni sera, perché questa roba qua non c'è in televisione. Ogni sera, mamma mia, prima c'era il Covid, ogni lì, e poi ti facevano vedere quanti morti c'erano ogni giorno a conta. Adesso questa storia qua, mamma mia, guarda, ci stanno riempendo le orecchie come il coso, cazzo. Una guerra dell'Ucraina, i morti che ci sono ogni lì, quello che vuole armi, cazzo. In pratica con i soldi russi dobbiamo dare armi a questo. Ma che cosa poi? Quando finirà la guerra, se ci rimarrà qualcosa in piedi, dobbiamo andare a costruire l'Italia, la Germania, la Francia, gli americani, e capito, si dividono tutto. Sì, i forti amici su cui buoni qua. Gli imputanti non vengano in oggi a rompere le balle. Se no troveranno una calda accoglienza. Ehi, poco da fare ci abbiamo noi italiani, non ci abbiamo niente per come armi, già lo sai. Non ci abbiamo niente, siamo come quella mondiale che andavano scalzi, tale uguale, perché non abbiamo mai fatto nulla. Siamo armati, ci abbiamo quelli vecchi che cominciavano i tedeschi, anzi questi che ho visto che se li stavano facendo nuovi, i carri armati. Noi siamo gli unici che non stiamo facendo nulla, mi faranno